Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. È stata segregata per 2 mesi nella camera da letto della sua abitazione con la porta chiusa a chiave. Non poteva uscire neanche per andare in bagno. È l'incubo vissuto da una 53enne di Isernia, vittima delle violenze di un 22enne veneziano conosciuto in una chat su internet. Il giovane è stato arrestato dalla polizia dopo l'allarme lanciato dal figlio della donna, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con la madre, rimasta vedova. Giunti sul posto per un controllo, non ricevendo alcuna risposta al citofono, gli agenti hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per raggiungere la finestra della camera dove era rinchiusa la 53enne. Solo dopo una lunga ed estenuante trattativa sono riusciti a convincere il carceriere ad aprire la porta d'ingresso. Quando i poliziotti sono entrati e l'hanno bloccato, la donna è scoppiata a piangere e ha confessato tutto. Dopo un primo incontro a Venezia, i due avevano deciso di convivere ad Isernia, ma ben presto il ragazzo aveva assunto un comportamento aggressivo, si era impossessato dei suoi documenti, della carta di credito e la obbligava a rimanere chiusa in camera. Il questore di Isernia, Ruggero Borzacchiello, ai microfoni di Telemolise, dice che il giovane non ha dato spiegazioni precise. Ma secondo me lui non si rende ancora conto di quello che ha fatto, perché è stato abbastanza freddo, non ha dato nessuna spiegazione. Il 22enne, incensurato, è ora in carcere con l'accusa di sequestro di persone. Naturalmente sembra il set di un telefilm d'orrore. Una donna di 53 anni, vedova, si presuppone, con bisogno di sentire ancora la presenza di una persona accanto a sé, cerca un contatto attraverso una chat. Non sappiamo bene se è un sito di dating, se era Facebook, o semplicemente comunque ha avuto un incontro con una persona, si è trovata soddisfatta dal rapporto con questa persona, era dolce, mi diceva delle cose gentili, insomma era uno che dava l'impressione di poter essere un sicuro possibile, una possibile alternativa alla sua solitudine. Lei va a trovarlo a Venezia, probabilmente lo vede, lo conosce, anche se il ragazzo ha 22 anni, c'è un notevole divario d'età, ma questo cosa importa? Quando c'è l'amore, perché dovremmo porci questo problema? Tanto che lo invita a venire a Isernia e lo ospita a casa sua. Lui si trasforma improvvisamente in una sorta di quei mostri proprio da telefilm. La lega a letto, la costringe a fare i suoi bisogni in un secchio, in una bottiglia, le sequestra i documenti, carte di credito, la malmena, insomma. Il figlio, quando non ha più notizia della madre, avverte la polizia e trovano la scena che è stata descritta da questo pezzo del TG5. Ora, su questo è possibile inanellare tutta una serie di letture e di ammaestramenti, la donna non deve cercare l'amore, ha sbagliato, le donne non possono permettersi questo. Oggi vorrei trattare questo argomento in maniera molto più laica. È lecito che le donne, comunque, come fanno gli uomini, cerchino di allargare il loro orizzonte relazionale, sentimentale, amoroso, sessuale, nella maniera che preferiscono. Però devono cominciarsi a rendere conto che corrono dei rischi. Ci sono delle maniere per ovviare questi rischi. Oggi cercheremo di capire come si può farlo senza rischiare di finire come questa donna. Quale sarebbe stato il suo destino? Ma certo, una persona ti sequestra per 2 mesi, è difficile che possa pensare che tu possa uscire viva da quella casa o da quella stanza. 800 24 00 24, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Stai conoscendo un uomo in chat e vuoi sedurlo, come fare? Beh, intanto devi tenere presente una cosa, che è molto probabile che un uomo si approcci a una chat con uno scopo in testa, lo scopo appunto. Questo non vuol dire che poi non possano innamorarsi, però quello è il punto di partenza. In un primo tempo devi cercare, diciamo, di dare un pelino di corda, ti fai vedere molto interessata, diciamo, tra virgolette. Nel momento in cui ti dimostra aperta e interessata, se quello comincia subito a martellarti, vediamoci a casa mia, oppure vediamoci qua, sai già che quello è veramente il suo obiettivo, la strada è in salita, e a quel punto lì dovrai iniziare a chiuderti. Perché in modo tale che lui li associ a livello analogico, a livello emotivo, il fatto che se fa subito delle avance, tu corri indietro. Quindi lui analogicamente capirà che se ti vuole, anche se ti vuole portare a letto, deve far finta di invece volere altro. Questo è un mitologico canale su YouTube che so frequentato e seguito da un'infinità di persone che io conosco, soprattutto donne, è Massimo Taramasco, che dà consigli psicologici su YouTube. È come avere lo psicologo in casa, guardandolo in televisione. Dà consigli su tutto. Cosa accade quando ti lasci con un amore, cosa accade quando vieni sedotta, cosa accade quando ti infili in una coppia costituita, cosa accade quando il marito è l'amante, cosa accade quando la moglie è l'amante. Insomma, ha risposte per tutti. In questo caso, il dottor Massimo Taramasco spiega alle donne come sedurre un uomo in chat, che in realtà non è la più difficile, la più difficoltosa delle operazioni. Sotto questo meccanismo funziona così: c'è un grande pollaio in cui in realtà sono più le faine che le pollastre, scusatemi la riduzione in termini piuttosto brutali. Esiste una caterva di uomini assatanati che cercano donne, anche semplicemente per chiacchierare, per fingere, per mettere a prova la loro capacità seduttiva. La maggior parte delle volte che abbiamo intervistato donne, soprattutto nella trasmissione del Trenova, frequentatrici di chat, alla fine sono grandi appuntamenti, grandi chiacchiere, grandi farlocchi, che addirittura prenotano la stanza d'albergo. Poi quando stanno lì al momento del dunque, no, guarda, non posso tradire mia moglie, scusami, e tutto finisce così. O raccontano maree, caterve di cazzate. Insomma, questo è un quadro. Però in questo caso, quello che mi piacerebbe sapere dal pubblico è sapere come vi esercitate anche voi in questo lecito esercizio della propria emotività. A questa donna è andata male, è andata molto male, è disperante il tentativo. Oggi sulla Stampa il collega Pierangio Sapegno fa altri esempi di casi andati anche molto male, e molti magari non se ne sa nulla, si sa soltanto di un cadavere trovato, di una persona insospettabile, non si sa come, dove, quando è stato ridotto a quello stato. Parla di un caso di Campobasso, fine 2015, inizio 2016, un mite signore di 42 anni, parrucchiere e cantante in una band, imitava Zucchero, aveva una fidanzata, però anche lui ha segregato l'amante di 14 anni più anziana di lui in una cascina, riempendola di botte, costringendola a recitare un decalogo della purificazione per ogni errore commesso, una sorta di setting sadomaso, di dominazione. Ma non è soltanto l'unico caso che riporta Sapegno. 2 anni fa esatti, dice, scrive sempre il suo pezzo sulla Stampa, una donna di Pavia è stata segregata dal convivente, è stata liberata, ridotta come uno straccio, pesava appena 15 kg e 2 giorni dopo è morta. Questi sono casi in Italia, poi nel mondo ce ne sono tantissimi. Insomma, vi esercitate in questa ricerca di un compagno, di una persona, di una compagnia, di un amore, di una frenesia carnale, attraverso le chat, attraverso gli strumenti informatici. Se lo fate, mi raccontate quali sono le vostre precauzioni, le vostre attenzioni, le vostre avventure o disavventure. Marina da Venezia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Quando riesco a seguirla, sempre ben accettata. Io devo un momentino dalla domanda posta ultimamente, nel senso che quando ho ascoltato mi è venuta in mente una cosa. A prescindere da, diciamo così, l'atteggiamento di questa persona, la ricerca nelle chat, di compagnia, eccetera, però immagino che questa signora avesse un figlio più o meno dell'età del suo sequestratore, potrebbe essere un'idea. Ma un figlio aspetta 2 mesi per avere un contatto con la madre e sapere se è vivo. Guardi Marina, la domanda che mi fa lei è stata fatta sia su WhatsApp da un ascoltatore sia via SMS. La prima domanda che fa il nostro pubblico: perché questo figlio solo dopo 2 mesi chiede notizie alla madre? Vivo. Sì, ci può anche stare, non aveva un rapporto con la madre. Evidentemente aveva una sua vita autonoma e non necessariamente era interessato alla vita della madre. Accade, guardi, accade che i figli seguano una loro via autonoma e non necessariamente sappiano la madre. Dopo, che quindi dopo si fanno vivi una volta così. Vabbè, se la madre ha 52 anni, il figlio poteva avere 30 anni, benissimo, avere la sua vita. E non esistono famiglie in cui non si hanno rapporti con le madri. Non aveva rapporto con la madre, quindi non era interessato alla sua vita. È sicuramente, ma non è qui, è di sicuro così, se no l'avrebbe detto una settimana dopo, se si fosse sentito abitualmente, e ripeto, non è un obbligo canonico, l'avrebbe detto prima. Ma sull'altro aspetto, che mi interessa più il suo parere, visto che l'ho, che una donna si senta sola e cerca di riempire la sua solitudine come può, quali sono secondo lei le precauzioni che dovrebbe avere? Perché qualcuno mi scrive, dice, certo, ti fai venire a casa un 22enne conosciuto in chat, un minimo può rischiare, ma normalmente quando uno si fida, si sono conosciuti, sono piaciuti, magari era bravo a sembrare un ragazzo mite, perché uno dovrebbe pensare che dietro c'è questo pericolo? Lei come la pensa, Marina? Ma io la penso in questo senso, che ci devono essere dei problemi alla fonte per andare alla ricerca di persone attraverso questi sistemi. Ma se uno non le trova nella vita concreta, magari stava in un piccolo posto dove non voleva farsi vedere in giro dai vicini che lei cercava un fidanzato, un amico. E quindi esiste già un problema di, diciamo, di apparire alla società. Però esiste questo, nei posti piccoli esiste. Sì, sì, magari esistono anche. Il fatto è che indubbiamente, anche se uno può conoscere una persona in chat, eccetera, penso che ci vorrebbero dei tempi un po' lunghi prima di effettivamente proporre una convivenza, eccetera, in modo da conoscersi un pochettino meglio. Ecco, quindi Marina dice, sono stati tempi molto stretti, un po' di frenesia, un po' di corsa, per cui non ha capito magari bene il personaggio e si è assunta c'è anche un po' di un lecito abbastanza normale sentirsi lusingata, una donna di 51 anni che ha le attenzioni di un ragazzo di 22, gli sarà sembrata una cosa molto bella, l'avrà fatta sentire giovane. Io però aggiungo una cosa a quello che dice lei, Marina: se possibile, dato per scontato il meccanismo di conoscenza, di frequentazione immediata di una persona che ci sta nella dinamica delle chat, sarebbe buona norma avere una persona fidata, un'amica del cuore, un amico del cuore, cui si dice: guarda, io domani mi vedo con la persona, questo è il suo telefono, questo è il suo nome, ci vediamo qua, ti do un check, cioè ti do una mia segnale presenza, entro 3 ore che lo vedo, se non mi senti, mi raccomando, chiama subito qualcuno. Non si fa, perché uno ha sempre una sorta di peso sulla coscienza, non vuole essere scoperto, non vuole che si sappia, ha come l'idea di compiere qualcosa di clandestino, anche se sei una persona sola e non devi renderne conto a nessuno. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Sì, la sto ascoltando. Io gran parte dissento su questo, diciamo, concetto che sono gli uomini che schiavizzano oppure torturano, fanno tutto, perché io ho la prova. No, io ho citato dei casi di cronaca, però, dei casi di cronaca in cui crimini sono stati. Ma perché fondamentalmente un uomo non denuncerà mai che è stato schiavizzato da una donna, perché fondamentalmente ha un orgoglio diverso. Ma qui non è schiavizzazione come gioco erotico, qui è un crimine, è un sequestro di persona, dico. Io sto parlando di sequestro di persona. Certo, sicuramente, però ci sono tante altre forme di violenza. Io nel 99 ho iniziato e chiuso nello stesso anno, quindi iniziato e chiuso, il discorso dei siti di incontri, okay, che erano mitici, voglio dire, che non erano nulla di particolare, ma nella mia vita ho incontrato solo delle pazze isteriche che hanno combinato di tutto. Una persona mi entrò nella macchina a Piazza 5 Giornate a Milano, voglio dire, e stiamo parlando di persone con cui avevo instaurato un rapporto solo ed esclusivamente di sesso e non di rapporti di un certo tipo. Ma questo accade, scusi, anche nei rapporti diciamo che nascono con in luoghi concreti, in situazioni più banalmente usuali. È chiaro, a un certo punto lei la vede come una storia di sesso, l'altra persona vorrebbe qualcosa in più e va fuori testa. No, sono i rapporti che cambiano. Cioè, io lei ha fatto l'esempio del ragazzo di Isernia, no? Voglio dire, quello ha iniziato, perché io penso che ha iniziato in maniera tranquilla, poi è diventato un carnefice, voglio dire, da questo punto di vista. Beh, l'atteggiamento da serial killer, direi, legare una persona e tenerla lì 2 mesi sequestrata. Mi sembra il film Misery non deve morire. Esattamente. Il caso è Misery non deve morire, è una lettrice appassionata dei romanzi di uno scrittore. Per impedire che morisse il personaggio chiave, lo prende, lo lega al letto, vorrebbe spaccargli le gambe a martellate, insomma, rischia moltissimo questa persona, è un atto criminoso. Ma sicuramente dal punto di vista femminile. Ma lei cosa è successo? Allora aspetti un attimo, Roberto, prenda un attimo fiato, diamo la linea come d'uso fare ai 28 e lei poi ci racconta esattamente cosa è successo a lei, così abbiamo l'aspetto speculare di questa vicenda, cosa accade agli uomini. A tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Il modo migliore per iniziare una conversazione, soprattutto con una donna che conosci poco, è essere positivo, divertente, portando energia. Ad esempio, fai una battuta simpatica. Ora, io non posso farti l'elenco delle battute simpatiche da fare ad inizio conversazione perché dipende troppo dalla situazione, dal fatto se conosci la ragazza, da quanto la conosci, insomma, da un sacco di cose. La battuta devi mettercela tu, così che lei sorrida quando arriva il tuo messaggio, di modo che il tuo messaggio sia qualcosa che spezza la monotonia della sua giornata, così aumenterai al massimo le possibilità che ti risponda. Detto questo, quando scrivi in chat, una donna ha pochi elementi, quasi nessuno, per poterti valutare. Non ti ha davanti, non sei lì che parli con lei. Quindi vabbè, lasciamo perdere, questo è un maestro di seduzione via chat, ma è chiaro che in chat esiste una sorta di paraculaggine per cui molti uomini riescono a fare breccia nel cuore delle donne, suscitare la loro attenzione. Ciao, grazie di avermi dato l'amicizia, come stai? E buongiornino, caffè, buongiornissimo. Ecco, sono le tipiche cose, caffè, buongiornissimo, poi dovreste sicuramente evitare, capito? Beh, sono uomini che fanno questo, magari sono dei panzuti che se ne stanno alla loro scrivania, dei ciabattosi padri di famiglia, essere schifosi o uomini rapaci che sanno che lì esiste un buon pollaio in cui fare le faine. Scrive un ascoltatore, solo delle cesse a pedali che non si tromberebbe nessuno vanno in chat. Non è vero, ti sbagli caro amico, ci vanno anche donne molto affascinanti. È una maniera per avere anche il brivido di una novità, di una conoscenza, di andare a dare oltre il recinto del proprio paese, della propria provincia, della propria città. 800 24 0024, raccontate le vostre esperienze in chat. Ci eravamo interrotti con Roberto che portava una sua opinione che è molto condivisa, vedo gli ascoltatori. Anche gli uomini rischiano, secondo me rischiano un po' meno di finire nelle mani di una criminale come la protagonista di Misery non deve morire. Ma cosa ha rischiato Roberto? Roberto. Io ho rischiato, premetto che all'inizio di quando sono partiti questi siti di incontro non c'era un discorso di tutoraggio, quindi le persone erano naturali, io sono stato sempre naturale all'inizio. Voglio dire, quindi non era un discorso di che avevo una mia tecnica, ero una persona naturale, come lo sono anche nella vita. Vabbè, chi va mitico questi siti, già si sa, si va per incontrarsi, non è che si va sì, per... Ma all'epoca stavamo parlando proprio dell'inizio proprio della chat. Era il 99, quindi era una cosa che si faceva. Io ricordo che fissavo 12 appuntamenti al giorno, perché facevamo in ufficio, facevamo a gara a chi ne fissava di più. Molti sono uomini che fanno finta, ad essere donne, questo si sa. Comunque, allora... sì, comunque ho conosciuto di tutto, ma ho conosciuto delle pazze isteriche, tra cui questa, la massima espressione, che alla fine sul cellulare io la tenevo scritta con il suo nome e poi scritto la pazza. Okay? Vabbè, perché che faceva? Ma all'inizio si presentò come superdonna della serie, non ti mettere niente in testa, io con te vengo solo perché mi piace, perché facciamo sesso. E io dissi, Madonna, questa è la donna della mia vita, dissi, mamma mia, io quello vado a trovare. Invece? Cioè, invece poi si è dimostrato un incubo. All'inizio tutto, iniziò tutto quando una volta andai a casa sua, perché lei abitava nella zona della Bergamasca. E lei pretendeva che io stessi nella camera da letto con lei, con il suo Rottweiler. Perché lei diceva, se non riesci a fare determinate cose con me tutto il resto, io ti faccio mordere la Rottweiler. La voleva inserire in un gioco di dominazione, lei non è stato d'accordo. Questo è indipendente dalla maniera in cui l'aveva conosciuta, puoi averla conosciuta anche alla balera sotto casa, secondo me. Parliamo di altri rischi, parliamo di un cambio repentino e rischiosissimo. Lei probabilmente una persona che aveva qualche problemino se la minacciava di farla mordere dal cane, però poteva sempre sottrarsi, un uomo pigliava, si alzava e se ne andava. Questa è stata legata, c'è una sopraffazione tipo fisico. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo un attimo però spostarmi, fare un discorso un po' aiuto alle donne che si affacciano a questo mondo, che secondo me sono quelle che rischiano di più, sinceramente. Bravo. Allora, la prima cosa è che di stare attenti, perché in queste chat, chiaramente, dove uno si nasconde dietro un monitor, è pieno di uomini sposati in cerca di avventure, che ahimè si spacciano come liberi. Vabbè, quindi, dipende, se uno cerca un marito è chiaro, ma se uno cerca un'avventura che gli importa se è sposato? Sì, certo, ok. Deve essere chiaro dall'inizio cosa cerca. Infatti, però il problema è che se tu cerchi qualcosa di importante, non solo l'avventura, comunque si palesano come qualcosa che non sono. In questo senso dico che bisogna stare attenti. È un luogo di mistificazione questo sempre, diciamocelo chiaro. Certo. Ma okay. La seduzione è basata sul principio della simulazione, non si seduce essendo quello che si è. Ma a lei è capitato mai qualche incidente di delusioni conoscendo persone in questo, attraverso questa modalità? Guarda, sì, delusioni. La cosa che succede spesso, così mi raccontano le mie amiche, ma anche i maschietti, che poi alla fine si palesano persone che ti avevano mandato una foto più o meno della loro prima comunione, cioè che nel frattempo si sono stempiati, messo sulla panza. La delusione, ti arriva un cadavere ambulante, tu pensavi fosse un bel ragazzo. Vabbè, questo succede. Beh, uno può dire ciao, me ne vado. Ma se il rapporto va avanti, lei, tra le sue amiche che fanno queste cose, non lei, diciamo, è mai successo che poi ci fosse qualcosa che ha ritenuto un momento rischioso, spaventoso, dice, ma era meglio che non ci venivo? Allora, a una mia amica è successa una cosa di questo genere. A sua amica, certo. Ha conosciuto questo tizio, si sono dati appuntamento, lui gli aveva detto chiaramente che era sposato e praticamente questo arrivava il lunedì mattina e lei doveva essere sempre a disposizione per lui. Ma faccia parte del patto? Innamorata, questo è il problema. Beh, quello è un problema della sua amica, però, ecco, scusi. Sì, ok, però voglio dire, stiamo attenti, ecco. Vabbè, quello sa, nella vita sempre uno deve stare attento, se si innamora poi dopo non è più però, padrone. Secondo me, quando tu conosci qualcuno dal vero, non so, ti invitano a una festa, chiacchiere con qualcuno, è un approccio diverso. Invece quando tu un'amica mia è saltato addosso un suo collega dopo una festa che l'accompagnava a casa, succede di tutto, guardi. No, quello che dico io è questo: quando tu conosci qualcuno, vabbè, Paola esperienza, scusi Paola, Roberta, scusi, non la voglio interrompere, mi servono esperienze. Paola, buongiorno, vediamo se andiamo più sul concreto, se no teorizziamo e basta. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Ciao. Servono consigli utili alle donne soprattutto. Assolutamente sì, caschiamo benissimo per esperienza. Racconti. Allora, io volevo dire di stare attente alle donne, di stare attente perché c'è piena l'aria di narcisisti perversi, nonché serial killer dell'anima. Vabbè, quelli sono fatti vostri, scusate, l'anima non è salvaguardata da un punto di vista giuridico. Se poi vi innamorate sono fatti vostri. Esattamente. Vabbè, ma no. Nessuno, scusate, ma è peggio trovare un seduttore che ti fa innamorare, tu magari non volevi e ti trovi coinvolta sentimentalmente, o uno che ti lega e ti taglia a pezzettini e ti mangia cominciando dall'alluce del piede? Ve le faccio una, non lo so, io questo sto parlando. Io sul cannibale vorrei stare più attento. Mi scrive un ascoltatore, il cannibale Milwaukee le cercava al bar. Sì, ma parliamo di 30 anni fa. Oggi le cerca nei luoghi in cui le anime romantiche si trovano. Lei ha avuto mai esperienze difficili, ma non che si innamora, quelli sono fatti suoi, esperienze che ha avuto paura di una persona che lei ha conosciuto? Sì, in passato sì, mi è capitato. E quale, racconti l'episodio di paura, che l'episodio d'amore è razionale, non possiamo definirlo. Sì, diciamo che dopo una storia che andava bene, dove lui si mostrava premuroso, gentile, carino, improvvisamente ha diciamo manifestato una gelosia assurda, non motivata, in una maniera totalmente patologica, diciamo. Totalmente patologica e inaspettata. E come si manifestava in atti concreti questa cosa? Ma diciamo a livello fisico niente, però una presa di posizione forte, dura, che non si smuoveva assolutamente da quella che era la sua fissa. Ma questo lo fanno anche i mariti, però dov'è la differenza? Sì, no, la differenza, ma questo, in questo caso si trattava di una convivenza, per cui possiamo... Bene, fermala, abbiamo capito. Parlate tutti di storie che hanno una finalità di accoppiamento che si prolunga nel tempo, di amore, di affetto. Io sto parlando semplicemente, forse che non c'è fra di voi nessuna donna che cerca soltanto avventure e deve stare attenta perché il prezzo di questa avventura può essere molto caro. Lecito farlo, però ci vogliono delle tecniche. Vediamo se qualche donna sa raccontarmi delle tecniche. Francesca. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, no, io racconto la mia storia, nel senso, nel 2001 mi sono affacciata, insomma, per curiosità a questo mondo delle chat e lì conobbi quello che, insomma, ho conosciuto diverse persone, però ho conosciuto poi quello che attualmente è mio compagno. Quindi non è vero che sono soltanto maniaci e rapaci provoloni, ha trovato anche una persona come lei, che è quella che corrispondeva alle sue attese. Sì, ora c'è da dire una cosa, io non sono di Firenze, io sono della provincia di Napoli. E diciamo noi ci siamo conosciuti, mentre ho conosciuto lui ho conosciuto anche altre persone. Vedo che già che ha assorbito anche comunque la lingua del suo amore. Insomma, vivo qui, lavoro qui da 10 anni, sicché insomma certo. Bisogna anche la napoletana che parla fiorentino, comunque vabbè. È sempre un'integrazione questa. Già, figuriamoci, è integrata fino in fondo. Sì, ma comunque io con i miei parlo napoletano, quindi sono bilingue, diciamo. Va bene, questo è un vantaggio per chi la frequenta. Insomma, nel senso, io conobbi lui, poi ho conosciuto anche altri, nel frattempo comunque... Hai fatto la sua scelta. La conoscenza con lui non è stata da subito, ecco, questo è il mio uomo. È stata una conoscenza più, insomma, conosciamoci, amici, poi... Sì, ma prima di scegliere nella rosa delle persone che frequentava l'eletto, che è questo signore che l'ha fatto cambiare lingua, le è andata male con qualcun altro? Cioè, è rimasta male, delusa? Soprattutto, si è sentita in situazioni di rischio? Allora, io mi ricordo quando scelsi di vedere lui, di conoscere lui dopo un po' di mesi o 7-8 mesi che ci conoscevamo, mi ricordo proprio la sensazione, no? Perché io partii da Napoli per venire qui a Firenze per conoscerlo, quindi io di persona non l'avevo ancora mai visto, avevo avuto qualche foto, ma insomma non l'avevo mai conosciuto di persona, sicché ricordo proprio il periodo che precedeva questo appuntamento, diciamo l'entusiasmo, no, nel conoscerlo. Poi ricordo il momento in cui il treno arrivò nella stazione di Firenze e dissi: cavolo, cosa sto facendo, madonna, sono sola, questo chi sarà, che farà. Però furono quei pensieri, insomma dei pensieri che mi svanirono nel momento in cui misi piede fuori dal treno, lo vidi allontano e vide il sole e capì che era il principe azzurro. C'ha ragione chi mi scrive adesso: Nicoletti, sono anni che vivo in chat, non mi è mai capitata nessuna donna che desideri un'avventura, ancora tutte delle grandissime Cenerentole, tra solo donne che cercano la grande storia d'amore. Non è così, non è così. Io ho conoscenze amiche, in realtà vanno per cercare avventure, ma evidentemente sono le storie che poi vanno bene, che nessuno ha da lamentarsi, sono delle professioniste che incontrano i professionisti, che è il connubio ideale. Massimo, buongiorno. Buongiorno. È un piacere parlare con lei, Nicoletti, l'ascolto sempre. Allora, fermo là, è un piacere, Centellini, questo piacere, devo togliere la parola, devo dare la linea. Ci sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. Ti troverai molti casi in cui le cose non vanno come dovrebbero. Te ne elenco qualcuno, i più comuni. Lei non risponde fin da subito. Può capitare che lei non risponda. I motivi possono essere davvero tanti. Può essere che sia impegnata con il ragazzo. Può essere che stia facendo qualche faccenda e abbia la testa altrove. Può essere che non si fidi di chi le scrive in generale. Può essere che sia in un brutto momento. Può essere che si accorga al volo che sei uno sfigato e quindi non perda il suo tempo con te. Questa è una delle ipotesi che trascura il nostro maestro di seduzione. Poi vedo che ci stiamo girando intorno. O mi parlano di storie felici, o mi parlano di uomini tartassati, un altro mi scrive su WhatsApp: nel 2000 vado a trovare una napoletana con casa al mare a Gaeta, ho dovuto scappare saltando la finestra per l'arrivo del suo ragazzo armato di coltello. Vabbè, ti vai a infilare a casa di una fidanzata a Gaeta col fidanzato armato di coltello, non ti lamentare, ma accadrebbe anche alla tua vicina di casa. No, il meccanismo che questa mattina invece riuscire a mettere a luce è che nel lecito esercizio della propria emotività che ha ogni donna di conoscere anche uomini sconosciuti e frequentarli, esisterà pure un sistema di sicurezza. Io ho detto una cosa: avvertite un'amica, un amico, dandogli una parola chiave, dicendo: io vado in questo posto a questa persona che risponde a questo numero di cellulare e ti do una chiamata ogni 2 ore, ogni ora, ogni mezz'ora. Se non mi senti, chiama subito la polizia. Non si fa, perché non si vuole rischiare che magari per qualunque ragione si scopra una marachella, una tresca o comunque un'attività che socialmente viene giudicata disdicevole. Ahimè, se si accetta il fatto di poter giocare la propria libertà emotiva, si affronti anche il giudizio della società per salvarsi la pelle. Perché tutte le questioni di tipo sentimentale, amoroso, delusioni, gli uomini sono egoisti, tutti uguali, vogliono solo una cosa. Ragazze, se accettate l'invito o l'attenzione di uno sconosciuto via chat, è chiaro che lo scopo è quello. Proprio nasce una storia d'amore, vi cerca per trombarvi. Se voi andate all'appuntamento di uno sconosciuto, ci andate per quello, non può essere diversamente. Non ci andate a prendere un caffè, andate per saggiare una storia che inizia con un atto fisico, poi può sbocciare anche in un fantastico amore. Questa è la regola, non ce n'è un'altra. Parlavo con Massimo. Sì, esatto. Andiamo avanti. Esatto, sono... Sì, no, volevo dirvi che io ho avuto varie esperienze con le chat, ho incontrato varie persone, tutte persone diciamo a posto con cui ci si incontrava, se ci si piaceva ci si poteva divertire insieme, altre volte si è incontrato delle persone che non erano come si erano descritte nella chat e ci si salutava dopo un caffè. Perché lei Massimo è una persona civile, semplicemente applica le regole della conoscenza, della seduzione, della frequentazione tra persone civili con uno strumento che velocizza tutto, ma fra persone civili non c'è possibilità di equivoco, penso, no? No. No, no, ma infatti, ma mi dava fastidio quando si descrivevano in un modo e poi erano tutt'altro, e allora lì ti sentivi preso in giro, anche perché magari dovevi fare tanti chilometri per andare a quell'appuntamento, no? Giustamente, e uno vuole quello che si offre, chiaro. Cioè, mi ricordo ancora una volta che una la mandai a quel paese, proprio in stazione centrale a Bologna, perché mi aveva fatto fare un sacco di chilometri per niente, descrivendosi in un modo assurdo, poi vedendo lei com'era, no? E dunque, basta essere sinceri e può andare tutto bene. Lei come si descrive, Massimo? Lei come si descrive? Ma io come mi descrivevo? Dicevo. Ma lei sincero, era sincero? Più. Era sincero? Io ero sincero, infatti da parte mia andava bene. Quelle poche che non lo sono state, poi saltava tutto. Ma nessuna mai è rimasta delusa da lei, ha detto no, tu non sai quello che hai detto. No, poi uno diciamo che adesso ci si, cioè uno vuole conoscere, si vede in foto, fa tutte quelle cose. Quindi che era proprio tempi primordiali. Io parlo del 98, 99, il 2000, i primi anni 2000, quegli anni lì dove si net chattava. Meeting, no mic, no chat, no cam, che la gente... No, appunto, qualcosa c'era della cam, c'erano le cam. Sì, però nessuno ce l'aveva mai, vabbè. Sì, era un casino. Ma comunque lei ormai è passato alla pace dei sensi, quindi non le interessa più. Alessandro, vabbè, complimenti. Alessandro, beato lei. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo portare anche la mia esperienza, dove circa 20 anni fa, io sono un ex mircattano, utilizzavo la forma Mirk. Ah, Mirk, certo. Mirk. Era un protocollo che un po' particolare, esatto, e soprattutto lì c'erano le varie stanze, quindi in base al genere, in base alle proprie attitudini, in base alla provincia, ognuno si registrava. Una donna entra nella chat obelischi di carne, è chiaro che non vanno a raccogliere le margherite, lì era chiaro. Esatto, quindi diciamo, innanzitutto notavo sempre che c'erano più donne quasi che uomini. Che erano tutti uomini travestiti, naturalmente. Lo non forse. Penso, diciamo ma che sì. Io ho notato che soprattutto in quegli anni lì c'era anche un livello culturale medio-alto nel mondo femminile. Le donne stesse, mi ero accorto, erano comunque donne che volevano uscire dalla routine e dalla monotonia. Poi guardi, le dico, so che la deluderò, statisticamente sono stati fatti studi, me ne sono interessato anch'io, a quei tempi, quando si limitava tutto poi a un chattare su argomenti erotici e difficilmente incontrarsi, al 90% erano uomini che facevano finta di essere donne per cercare di carpire intimità da altri uomini, facevano finta di essere donne e simulavano amori particolari tra donne, ma in realtà erano tutti maschi che stavano lì a farsi seghe pensando chissà che succedesse. Era un po' triste quel quadro rispetto a oggi, in cui la gente poi realmente si incontra, è diverso rispetto a quei tempi. È rimasto la realtà è sempre difficile. È venuto fuori quello che volevo questa mattina. Volevo che qualche donna mi dicesse: io lo faccio, ma ci sto attenta in questa maniera. Hanno parlato solo uomini e hanno raccontato, come sempre, le loro mitologiche passioni e mitologiche evoluzioni sessuali. Ma finisce qua. Alla prossima. Andrà meglio.